voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Dewey, I'm not paying your share of the rent, so... I don't know. I mean, maybe you should sell one of your guitars or something. What? Would you tell Picasso to sell his guitars? This weekend I constructed a model for the answer. It wasn't very easy, but these things never are, I suppose. The idea came upon me, a model for the weekend. I put my hands upon it and held it up for everyone. I put my hands upon it, capturing its beauty. I put my hands upon it, and now I cannot tear them away. Tuesday. I am far from perfect. The model is a beauty. The model is a beauty. I am far from perfect. The model is a beauty. Si è aperta così la seconda parte del volume di quest'oggi di Eclettica sulle frequenze di Rock FM tutti i giorni tra le 19 e le 20 in compagnia di Giulio Caperdoni, che ricordo risponde all'indirizzo giulio@radiorockfm.com. Si è aperta così, ovvero sia con To My Boy, duo di chitarra e di computer che proviene da Liverpool, uscito proprio ieri con il pezzo in questione, ovvero sia Model, uscito il 18 di giugno. Sottolineo la data perché non è detto che chi ascolta, come sottolineo spesso, ascolti in diretta, magari grazie al podcasting ascolta anche con 10, 15, 20, 30 giorni di ritardo rispetto alla prima trasmissione. E poi arriva invece il momento dei Future Sound of London, non c'è niente di nuovo da parte loro, infatti è il momento di Profumo di Eclettica, cioè il ripescaggio dalle vecchie playlist di questa trasmissione, dei brani che l'hanno caratterizzata. E quest'oggi facciamo un salto al 1996, a Dead Cities, il nuovo album per Astral Works in quell'anno per i Future Sound of London, che seguiva Live Forms del 1994. Album dal quale ci ascoltiamo la traccia numero 6, proprio quella che era sempre presente in quel periodo all'interno di Eclettica. Si tratta di My Kingdom. Profumo di Eclettica. Nessuno si era stupito quando Sana Ubar era scappata, ma tutti erano rimasti perplessi quando Ali, che sapeva il Corano a memoria, aveva sposato quella donna bella e senza scrupoli, che aveva 19 anni meno di lui e una pessima reputazione. Come Ali, Sana Ubar era una sciita di etnia Hazara ed essendo sua prima cugina era naturale che lui l'avesse chiesta in moglie. Tuttavia, i due non avevano niente in comune. Si vociferava che i lucenti occhi verdi ed il sorriso malizioso della ragazza avessero indotto al peccato innumerevoli uomini e che il sensuale ondeggiare dei suoi fianchi evocasse fantasticherie di infedeltà. Ali, invece, aveva una paralisi ai muscoli della mascella che gli impediva di sorridere. Aveva un'espressione perennemente cupa, ma talvolta i suoi occhi a mandorla si illuminavano in un sorriso o si spegnevano nel dolore. Si dice che gli occhi siano lo specchio dell'anima. Niente era più vero per Ali, che solo attraverso gli occhi rivelava se stesso. Inoltre, la poliomielite gli aveva atrofizzato la gamba destra, rendendo la massa muscolare sottile come un foglio di carta. Ricordo che un giorno, avevo circa 8 anni, mi aveva portato con sé al bazar per comprare del naan. Camminavo dietro di lui canterellando e lo guardavo procedere faticosamente, sollevando la gamba scheletrica che descriveva un ampio arco prima di posarsi a terra, mentre lui spostava tutto il peso del corpo sulla destra. Era un miracolo che non cadesse a ogni passo. Quando provai a imitarlo, per poco non andai a finire nel fango, ridacchiai e Ali si girò, ma non disse niente, né allora né mai. Continuò a camminare. La faccia e l'andatura di Ali spaventavano i bambini più piccoli del quartiere, ma quelli più grandi lo seguivano, canzonandolo mentre arrancava per le strade. «Ehi, Babalù, che hai mangiato oggi?» lo apostrofavano in un coro di risate. «Che hai mangiato oggi, naso piatto?» Questo era ancora il cacciatore di aquiloni, di Khaled Hosseini. We'll be right back. I've been mooching off you for years, and it's never been a problem until she showed up. Just dump her, man. Yeah, well, if you don't come up with some money, she's gonna dump me. She's fed up. Really? Because that would be a good thing. She's a nightmare. Come on! I may never have another girlfriend. I mean, just come on! Come up with some money, please! Please! Okay, for you, not for her, man, for you. Guarda, quest'oggi Eclettica si sta avviando alla conclusione qua sulle frequenze di Rock FM in compagnia di Giulio Caperdoni. Ricordo Giulio at radiorockfm.com e myspace.com/eclettica se volete mantenere il contatto. Ci siamo appena ascoltati gli Oh Death da New York con Adelita, su cui già settimana scorsa avevo speso parecchie parole che quest'oggi invece spendo per l'ultimo pezzo della giornata. Una band che proviene da Allentown, Pennsylvania. La loro musica si nutre di punk, ripetitivo, monolitico, aggressivo, e dopo un album realizzato su Parts Unknown Records ed un 7 pollici, sono arrivati alla Sub Pop, per cui esordiscono il 14 di giugno, quindi pochi giorni fa, con un album dal titolo Hope for Man. We'll be right back. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 38, volume numero 2. Indice: Soul Seppi, The Presets, Farabee Lionheart, Jennifer Gentle, Jonette Napolitano, To My Boy, The Future Sound of London, Battles, Oh Death, Pissed Jeans. Giulio Caperdoni vi saluta e vi rimanda a domani, sempre alle 19 su Rock FM.